ne sponda la luna a marecchiare, pure lì piscenge fanno all'amore. S'arrivata la luna del mare, per la friezza cagnano colore, quando ne sponda la luna a marecchiare. A marecchiare in gesto e la passione mia in getuzzulea lucaro fenandora intanna testa passa l'acqua ma sotto murmurea a marichiare in gestara a fresta ah, ah, ah, ah. A marchiare, c'è sta una festa. Chi dice che le stelle son lucente, non sapesse tu che tu dio l'anfronte. Sti due stelle rissacci sulla mente, dinta al cuore ne tengo il ponte. Chi dice che le stelle son lucente? Scedate caruli callari e doce, quando mai tanto tempo già aspettate, accompagnare il suore con la voce stasera una chitarra già portate. Scendete caruli callari e doce ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ascetate, ascetate, scendete caruli callari e doce